si mossero tutti gli israeliti e si riunirono in assemblea, tutti unanimi da Dan fino a Bersabea e fino alla regione del Galaad, in Mizpa, alla presenza del Signore. Erano presenti all'assemblea del popolo di Dio i capi del popolo di tutte le tribù di Israele, e c'erano 400.000 fanti abili nell'uso della spada. I beniaminiti sentirono dire che gli israeliti si erano radunati in Mizpa. Gli israeliti chiesero che fosse loro spiegato come era avvenuto quel delitto. Prese allora la parola il Levita, marito della donna uccisa, e disse: «Io ero entrato con la mia concubina in Gabaa di Beniamino per pernottarvi. Quando ecco che i cittadini di Gabaa, sollevatisi contro di me, circondarono di notte la casa dove mi trovavo. Volevano uccidermi, e, in quanto alla mia concubina, la violentarono in maniera tale che morì. Io allora ne presi il cadavere, lo feci a pezzi e li mandai per tutto il territorio dell'eredità di Israele, perché era stata commessa in Israele un'infamia grande. Ecco, ora tocca a voi tutti, o israeliti, discutere e prendere una decisione qui». Tutto il popolo, come un solo uomo, insorse a dire: «Nessuno di noi tornerà alla sua tenda, nessuno tornerà alla sua casa. Ed ora, ecco quello che faremo a Gabaa: ci porremo contro di essa. Tireremo a sorte, scegliendo 10 uomini su ogni 100 da tutte le tribù di Israele, 100 su 1000 e 1000 su 10.000, perché provvedano ai viveri per coloro che andranno a ripagare Gabaa di Beniamino per tutta l'infamia che essa ha commesso in Israele». Così tutti gli uomini di Israele si radunarono davanti a Gabaa, unanimi come un solo uomo. Allora le tribù di Israele mandarono alcuni uomini per tutto il territorio della tribù di Beniamino a dire: «Che è questo delitto che è avvenuto in mezzo a voi? Ora consegnateci quegli uomini, figli di Belial, che sono in Gabaa, che li metteremo a morte, per togliere il male in mezzo a Israele». Ma i beniaminiti non vollero dare ascolto alle parole dei loro fratelli israeliti. Anzi, si radunarono dalle loro città in Gabaa, decisi a combattere contro gli israeliti. I beniaminiti, venuti dalle varie città, quel giorno si contarono. Erano 26.000 uomini, tutti capaci di maneggiare la spada, senza contare gli abitanti di Gabaa. Fra tutti quei soldati c'erano anche 700 uomini, scelti ambidestri, che erano capaci, tutti, di scagliare con la fionda un sasso con la massima precisione, senza mancare il bersaglio. Anche gli uomini di Israele si contarono. Erano 400.000, il conto fu fatto senza Beniamino, capaci di maneggiare la spada. Erano tutti guerrieri. Gli israeliti si mossero per raggiungere Betel, dove interrogarono Dio per sapere chi di loro avrebbe dovuto essere il primo a muovere contro i beniaminiti. Il Signore rispose: «Muova per primo Giuda». Gli israeliti mossero all'alba e posero il campo contro Gabaa. Gli israeliti, usciti a battaglia contro Beniamino, schierarono l'esercito contro Gabaa. Ma i beniaminiti, fatta una sortita da Gabaa, uccisero quel giorno 22.000 uomini di Israele. Allora gli israeliti, tornati a Betel, piansero alla presenza del Signore fino a sera e gli domandarono se dovevano continuare la guerra contro i beniaminiti, che erano loro fratelli. Il Signore rispose: «Andate contro di loro». Si rincuorarono allora gli israeliti e tornarono a schierare l'esercito nello stesso luogo in cui lo avevano schierato il giorno prima. Così fu la seconda giornata che gli israeliti muovevano contro quelli di Beniamino. Anche questa volta i beniaminiti uscirono ad affrontare quelli di Israele fuori di Gabaa e ne uccisero ancora 18.000, tutti capaci di maneggiare la spada. Tornarono tutti gli israeliti, tutto il popolo, a Betel per piangere, e restarono lì, davanti al Signore, digiunando fino a sera, fecero olocausti e sacrifici di comunione. Poi gli israeliti interrogarono ancora il Signore. In quel tempo l'arca dell'alleanza di Dio si trovava in quel luogo, e ad essa prestava servizio Finees, figlio di Eleazaro, figlio di Aronne. Volevano sapere se dovevano ancora continuare la guerra contro Beniamino, che era loro fratello, oppure dovevano smettere. Il Signore rispose: «Andate, che domani darò Beniamino in vostra mano». Gli israeliti posero dei gruppi all'agguato intorno a Gabaa. E così fu la terza giornata che gli israeliti mossero contro quelli di Beniamino, schierandosi davanti a Gabaa come le altre volte. I beniaminiti vennero fuori dalle mura incontro al nemico, lasciandosi così attirare lontano dalla città. Cominciarono ad assalire come le altre volte, uccidendo fra gli israeliti circa 30 uomini. Lo scontro avvenne in aperta campagna, al bivio da cui partono le strade che conducono l'una a Betel, l'altra a Gabaa. I beniaminiti pensarono che quelli di Israele fuggissero davanti a loro, come era successo le altre volte. Invece, gli israeliti avevano fatto il piano di fuggire per attirare i beniaminiti lontano dalla città, nella zona del bivio. Tutti gli israeliti mossero dalle loro posizioni e si schierarono a battaglia a Baal Tamar, mentre gli uomini disposti negli agguati irrompevano dai loro nascondigli posti nella piana brulla di Gabaa. 10.000 uomini scelti di tutto Israele si presentarono davanti a Gabaa. La battaglia fu molto aspra e i beniaminiti non si immaginavano che la sventura stava per toccarli. Il Signore sconfisse Beniamino davanti a Israele e gli israeliti uccisero quel giorno 25.100 beniaminiti, tutti capaci di maneggiare la spada. I beniaminiti si accorsero di essere stati sconfitti. Gli israeliti si erano ritirati davanti ai beniaminiti perché avevano fondato la loro speranza sugli uomini che avevano posto all'agguato contro Gabaa. Questi, infatti, si precipitarono in furia su Gabaa e vi penetrarono, passando tutti gli abitanti a fil di spada. V'era stato un accordo fra il grosso dell'esercito israelita e gli uomini che erano all'agguato, che questi ultimi, una volta penetrati nella città, avrebbero fatto una grande colonna di fumo. A questo segnale, il grosso dell'esercito israelita avrebbe cessato di fuggire per dare battaglia. I beniaminiti vennero all'assalto e uccisero una trentina di israeliti, perciò essi erano sicuri che Israele sarebbe riuscito sconfitto, come nella battaglia precedente. Quando, però, cominciò ad alzarsi dalla città la colonna di fumo, i beniaminiti si volsero indietro e videro salire verso il cielo il fumo dell'incendio che divorava tutta la città. Fu allora che il grosso degli israeliti cessò di fuggire per far fronte ai beniaminiti, che furono presi dal panico perché si rendevano conto che la sciagura li stava raggiungendo. Si dettero alla fuga davanti agli uomini di Israele in direzione del deserto, ma la battaglia li raggiunse ugualmente, mentre gli israeliti che uscivano dalla città li prendevano in mezzo, massacrandoli. Beniamino fu circondato e inseguito fin sotto Gabaa, dalla parte a oriente della città. Furono 18.000 i beniaminiti che caddero, tutti guerrieri valorosi, e si volsero ancora in fuga, in direzione del deserto. Raggiunsero la rupe di Rimmon ma gli israeliti ne rastrellarono altri 5.000 per le varie strade, continuando a inseguirli fino a Gideom, uccidendone altri 2.000. Così quel giorno Beniamino ebbe in tutto 25.000 morti, tutti capaci di maneggiare la spada, ed erano guerrieri valorosi. In seguito alla fuga raggiunsero la rupe di Rimmon nel deserto 600 uomini, i quali vi restarono per 4 mesi. Ritornati poi indietro per cercare ancora beniaminiti, gli israeliti passavano tutti a fil di spada nel territorio della città, uomini e bestie, chiunque capitasse loro davanti. Davano alle fiamme anche tutti i villaggi che incontravano.